Investire informati. E do il benvenuto ad Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Bentornata. Grazie, buongiorno. Allora, dottoressa, è una delle missive più temute da ognuno di noi, in particolare da chi, no, gestisce il conto corrente nella modalità tradizionale, no? Andando cioè allo sportello fisico per eseguire gran parte delle operazioni bancarie, che il conto online magari invece lo controlla più spesso. Partiamo dal conto corrente. Chi lo ce l'ha in cartaceo, chi online? Facciamo questa macro distinzione. Sì, allora diciamo che gli italiani si stanno sempre più abituando all'utilizzo online dei conti correnti. Dalle ultime statistiche risulta che circa il 50% dei correntisti italiani utilizzano l'online per le loro operazioni, quindi 15 milioni di correntisti usano l'home banking. Questo però non vuol dire che tutti hanno un estratto conto online, perché ancora si preferisce molto spesso ricevere a casa la documentazione cartacea. Sì. Quindi in realtà possiamo dire che la metà di questi 15 milioni di correntisti presumibilmente preferisce l'estratto conto online. Posso dire sbagliando, cioè nel senso, posso dire che chi non ha l'estratto conto online molto spesso purtroppo compie un errore, nel senso che lo paga di più, paga l'estratto conto cartaceo sicuramente di più, perché l'invio ha un costo, una commissione che di solito è intorno all'euro. E poi peraltro molto spesso ci si dimentica anche di leggere la comunicazione che arriva dalla banca, mentre online comunque la documentazione viene tutta essere archiviata sul sito della banca e la propria sezione personale, e quindi si ha maggiormente la possibilità poi magari di prenderne visione quando se ne ha bisogno. E quindi lo paga di più e lo consulta di meno, e ecco, quindi i rischi, esatto, di andare in rosso sono più alti. Ne parleremo soprattutto per dare la possibilità ai nostri ascoltatori, che invita a chiamare il nostro numero verde, di raccontarci quali sono i passaggi, le voci più difficili, quelle che, su cui hanno maggiori dubbi, le sorprese che hanno ricevuto consultando il conto corrente. Cuore e denari. Il blu è un rosso relativo, senza macchia d'amore. Beh, andare in rosso con il conto senza accorgersene è un rischio da evitare, ed è questo un buon motivo per cui è importante leggere con attenzione l'estratto conto, di cui parliamo oggi nel nostro appuntamento del giovedì, Investire informati, con la nostra ospite Anna Vizzari, che è tornata a trovarci, dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Dottoressa Vizzari, l'estratto conto è sempre pieno di voci che restano per alcuni incomprensibili, oppure qualcosa magari è cambiato. Lo rileggiamo un attimo insieme, questo documento? Sì, certo. Che allora, non ci fa mai piacere. Io quando, esatto, passo, io ormai, guardi, la buca delle lettere non voglio neanche più vederla, perché quando è vuota, dico che bella giornata, perché c'è sempre qualche cosa che non va, o multe, o ti chiedono qualche... Vabbè, comunque, chiudiamo. E anche l'estratto conto, certo, a vederlo lì, che ci guarda, potrebbe essere anche quello un trauma, diciamo così, un pericolo, no? Però al di là di tutto, forse è bene ricordare che innanzitutto si riceve di solito 4 volte all'anno, quindi ogni trimestre si riceve una lettera dalla banca che riassume sostanzialmente i movimenti che abbiamo fatto nel trimestre sul nostro conto corrente. Quindi all'interno troviamo ovviamente evidenziati tutte le operazioni, bonifici, pagamenti con carta bancomat se li abbiamo fatti, eventuali addebiti di rate di mutuo, tutte le nostre operazioni. Nella parte finale c'è il famoso saldo, quindi sostanzialmente la giacenza che abbiamo sul conto corrente, che ovviamente terrà conto del saldo iniziale, quindi la giacenza inizio trimestre, di tutti i movimenti che abbiamo fatto, sia positivi che negativi, quindi pagamenti o crediti di stipendio per esempio, e quindi avremo la nuova giacenza di fine anno che se ci va bene potrà anche contenere degli interessi attivi, cioè un pagamento a nostro favore che la banca ci riconosce perché appunto abbiamo depositato i nostri soldi sul conto. Posso dire che questo accade raramente, perché nella maggior parte dei casi il tasso di interesse purtroppo è molto vicino allo zero, per e cui quindi di solito sono spese che riducono ulteriormente, ci sono soltanto spese che riducono ulteriormente le giacenze, quindi le famose commissioni delle banche. Rispetto a qualche anno fa, devo dire che gli estratti conto sono adesso un po' più comprensibili, nel senso che le banche hanno fatto un po' uno sforzo per rendere anche graficamente un po' più facile la lettura. Si cerca di evitare termini troppo tecnici, però comunque nella nostra esperienza possiamo dire che si tratta di uno dei documenti che viene meno letto dai consumatori, purtroppo è così. I punti più oscuri secondo lei quali sono? Quelli che ci mettono più in difficoltà? Allora, sicuramente proprio anche leggere l'intero documento è difficile, nel senso che già trovarsi di fronte magari a 3-4 pagine Non invoglia. No, non invoglia assolutamente. Poi ci sono anche dei termini che forse non sono tanto comprensibili, per esempio i numeri creditori e i numeri debitori sono delle voci tecniche che potrebbero essere sostituiti mettendo per esempio calcoli interessi a favore o a sfavore del cliente, quindi sicuramente si potrebbe lavorare maggiormente su questi aspetti, però quello che posso consigliare a tutti è di leggere assolutamente l'estratto conto, soprattutto di verificare se nella busta insieme all'estratto conto la banca per esempio ci comunica che da lì a poco le condizioni del conto cambieranno, perché ricordiamo che per questa è un'informazione che non dobbiamo perderci. Assolutamente, perché ricordiamoci che la banca deve informarci almeno 60 giorni prima delle variazioni che si avranno sulle condizioni del conto, quindi per esempio nuove commissioni o commissioni più alte, e noi abbiamo appunto tempo fino all'entrata in vigore della modifica, quindi 60 giorni, per poter recedere alle vecchie condizioni del conto corrente, eventualmente cercare anche altrove condizioni migliori. L'estratto conto ci serve anche perché a capire... io ho capito da Deborah, dottoressa Vizzari, che la fedeltà la banca non paga, vero? Non bisogna essere tanti. D'accordo. Non bisogna tanto essere fedeli, cioè fedeli con il compagno, gli amici, ma con la banca non tanto. Vero? Esatto. Ma lo dice anche Banca d'Italia. Ecco, quindi non solo Deborah, a me l'ha detto Deborah, poi anche Deborah, la Banca d'Italia. Lo dice Banca d'Italia, nel senso che i conti correnti aperti da più di 10 anni costano più del doppio di quelli aperti quest'anno. Quindi è evidente che forse è meglio cambiare alla ricerca di condizioni migliori. E spesso i clienti che sono con la stessa banca da tanto tempo sono trattati peggio, purtroppo questa è la situazione. È vero, nuovi. È vero, sì, ma non solamente nelle banche, anche le promozioni vengono sempre fatte per i nuovi, i vecchi ci sono esatto. E stanno lì. 800 24 00 24, continuate a raccontarci che rapporto avete con questo strumento, il conto corrente, che uso ne fate, vi aiuta a prevenire magari eventuali guai, vi annuncia semplicemente delle brutte sorprese, invece siete proprio preparati, lo leggete, lo consultate, sapete tutto? Siete mai andati tra l'altro in rosso? Perché dottoressa Vizzari, può costare caro andare in rosso anche per pochissimi giorni, anche per pochissimi euro, vogliamo ricordarlo? Sì, sicuramente è meglio non andare in rosso, diciamo che rispetto al passato la situazione è un po' migliorata, però il tasso di interesse che la banca applica in questo caso è sempre a due cifre, quindi si può arrivare addirittura a pagare il 22% sui giorni di rosso. E poi c'è una spesa aggiuntiva che viene chiamata commissione di istruttoria veloce, che la banca applica ogni qualvolta noi andiamo in rosso e che può raggiungere anche i 50 euro, è differente da banca a banca. Però ricordiamo che non può essere applicata se in un trimestre il cliente è andato in rosso una sola volta per meno di 500 euro e per non più di 7 giorni consecutivi. Quindi sostanzialmente se il nostro rosso è stato momentaneo con una durata inferiore ad una settimana, ed è inferiore comunque ai 500 euro, questa commissione non ci viene fatta pagare, però è vero che se per esempio il rosso dura 15 giorni, comunque la commissione di 50 euro la si paga. Ma la banca ci avverte oppure no? La banca non è obbligata ad avvertirci, anche perché chi va in rosso di solito lo fa perché fa dei pagamenti superiori alla giacenza e non chiede preventivamente, non chiede nulla alla banca, la banca ci fa una concessione, no? Sostanzialmente ci permette di fare dei pagamenti superiori alla giacenza, quindi non è obbligata ad avvertirci. Quindi bisogna fare molta attenzione, in questo caso sicuramente controllare i movimenti online periodicamente è molto utile. Ma quando lei dice periodicamente, mi dia un po' una ricetta per essere presente e controllare bene senza andare proprio alle cose, mi faccio un bignamino. Sì, del proprio conto... per essere molto pratici, se devo fare un bonifico di 1000 euro, prima controllo online qual è la mia giacenza e verifico se eventualmente andrò in rosso. Certo. Quindi io direi che anche una volta ogni 15 giorni fare un controllo sul conto corrente per verificare qual è la nostra giacenza non è male, ecco, per evitare poi appunto delle spese inutili, perché molto spesso basta fare proprio poca attenzione sulle spese. Vanno, Ferdinando dalla provincia di Napoli, quanto vanno questi soldi? Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, hanno le ali. Sì, io volevo fare una domanda molto semplice. Se un correntista non riesce a rientrare con saldo negativo, molto spesso la banca si rifiuta di chiudere il conto. Cioè, fermo restando che la banca ha diritto poi di riavere le somme che deve avere. Però col passare degli anni, magari un saldo negativo di 5.000 euro, di 1.000 euro, diventano, diciamo così, in maniera esponenziale, cresce sempre, il conto non è più movimentato perché il cliente non ce la fa più a rientrare e la banca si rifiuta di chiudere il rapporto, anche su richiesta del cliente. Anna Vizzari. Sì, è perché la chiusura del conto è subordinata al fatto che il conto sia inattivo, quindi la giacenza deve essere positiva, la banca non chiuderà mai un rapporto che è in rosso. L'unica possibilità è trovare altrove i soldi per coprire il rosso, quindi sostanzialmente pensare a un... Quindi io devo essere con le carte in regola, quindi non devo essere in rosso per salutare la mia banca. Esatto, assolutamente. Perché se sono in rosso mi tiene lì. Sì, sì, non c'è possibilità. In rosso è vincolata, in un abbraccio stretto. Quello che si può fare è concordare con la banca un piano di rientro, eventualmente non far pagare subito tutto il saldo in negativo, ma pensare ad una rateizzazione anche di questo rosso di conto corrente. Fabio ci scrive al 349-238-6666, ve lo leggo prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, ma perché avendo la posta elettronica, oltre a quella ordinaria, non si riesce a farle smettere di spedire il cartaceo e quindi ridurre le spese? A tra poco, dopo le informazioni sul traffico. Strade in diretta. Buona giornata e ben ritrovati sul tratto toscano della A1 Milano-Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra Chiusi e Valdichiana verso Milano. In direzione opposta invece traffico rallentato a causa di materiali dispersi tra Barberino del Mugello e Calenzano. A causa del traffico intenso si procede in coda sul tratto milanese della A4 tra Pero e Cormano verso Venezia e sulla A8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il nodo con la A4 verso il capoluogo lombardo. Infine sul grande raccordo anulare di Roma, ancora per traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code in carreggiata esterna tra la Casilina e la Prenestina. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo tra 60 minuti. Cuore e denari. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. Torniamo in banca a parlare di conto corrente. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Anna Vizzari dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Siamo al giovedì nel nostro spazio di Investire Informati. Anna Vizzari, un ascoltatore ci ha mandato un messaggio dicendo: ma perché con la posta elettronica io non riesco a far capire alla mia banca che non voglio l'estratto conto cartaceo? Fa il paio con un altro ascoltatore che ci scrive che la sua banca dice che per legge il cartaceo deve spedirlo a casa nonostante abbia il conto online. È corretto questa informazione che mi arriva dalle domande e dei miei ascoltatori? No, allora, nel senso che il cliente deve chiedere alla banca di avere l'invio solo online della documentazione. È una richiesta che si fa o all'inizio del contratto, quando si instaura il rapporto con la banca, oppure dopo eventualmente chiedendo direttamente alla banca, all'ufficio clienti della banca. Quindi una volta chiesta la documentazione online, tutto arriverà online, però non al nostro indirizzo di posta elettronica, quanto piuttosto ci sarà un accesso riservato nella nostra sezione di home banking, quindi sul sito online della banca a cui noi accediamo con i nostri codici personali. Non arriva una comunicazione via posta elettronica, certo. Se ho capito bene la domanda del radioascoltatore. Sì, sì. Ecco, quindi in realtà si chiede la documentazione online, si passa all'home banking e si avrà una sezione dell'home banking, del sito della banca personale in cui ci sarà la documentazione. Andiamo alle domande, mi sembra chiarissimo. Andiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Do la precedenza ad Angela, ci chiama da Milano, e poi passo a Giovanni da Bergamo. Angela, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Innanzitutto voglio dirvi che siete due fate del benessere economico e fisico. Brava, allora Angela, senta, sì. Tanto che Deborah non c'è, perché poi mi dice, sì. Nico, ne parliamo troppo, eccetera. Lei lo sa che Deborah ha scritto un libro bellissimo proprio in questi giorni, Donne sì, di Denari. Sentito. Ecco, allora, intanto che Deborah non ci sente, tanto ritorna lunedì, io ve lo dico perché è veramente un libro che secondo me a noi, non solamente alle donne, a tutti, è certo. Utile leggere perché ti dà una consapevolezza della gestione e del rapporto. Titolo? Donne di Denari. Ah, adesso sì, però lei sì, non sì, dica sì, a Deborah che gliel'ho detto perché sennò mi dice che faccio sì. troppa pubblicità. No, Angela, preoccupa. Comunque vada a prenderlo. Sì. Mm. Allora, io un po' di anni fa sono dovuta tornare a casa dei miei per via che loro stavano male, no? E sono stata via 10 anni, però nel frattempo io ho chiesto di trasferire il conto sulla banca del paese sì. e mi sono accorta che il costo del conto corrente da 2 euro era passato a 5. Ho chiesto alla signora che era lì, che mi stava riaprendo il conto nella mia città, praticamente di dirmi come mai. E lei dice no, non è possibile, ha preso un foglio dove c'è scritto che in tutta Italia c'è quel costo del conto corrente, cioè di 2 euro e non di 5. E invece lei ne pagava 5. Sì, ho chiesto di informazioni, ho telefonato io, ho fatto telefonare, si sono rimbalzati la palla fino a che l'ultimo giorno dice no signora, sa, lei paga tanto perché ha un conto speciale. Io non ho nessun conto speciale. Magari la nostra esperta riesce a darle una però spiegazione. Però io ho chiuso subito il conto anche se non voleva fare brava. Cose. Secondo me ha fatto bene, Anna Vizzari ha fatto bene, sì, Angela? Benissimo, ha fatto benissimo. Anche perché hanno dato delle comunicazioni un po' sbagliate. Cioè esiste una documentazione ufficiale che è il foglio informativo in cui la banca deve indicare le condizioni economiche massime, quindi i costi massimi che possono essere applicati al cliente. Poi sotto quel costo si può assolutamente scendere, però quello è l'importo massimo, quindi se quel conto corrente chiamato in quel determinato modo aveva un canone di 2,90 euro, quello doveva essere il canone massimo per tutti i clienti, non si poteva arrivare a 5 euro. Quindi va benissimo aver chiuso il rapporto, si potrebbe anche provare a fare un reclamo per iscritto alla banca e chiedere il rimborso di queste somme pagate a questo punto ingiustamente. Sarebbe da fare, guardi. Esatto, sì, io lo farei. Esatto. Allora, per farsi aiutare, Angela, se avesse bisogno? Se avesse bisogno ovviamente può chiedere ad Altro Consumo, sul nostro sito anche altroconsumo.it ci sono tutte perché le informazioni. Sì, perché magari sì. E poi appunto posso dire che il reclamo va fatto sempre per iscritto, può chiedere la nostra assistenza e sostanzialmente la banca deve dare risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Quindi abbiamo anche una tempistica ben definita, non bisogna aspettare mesi o anni. Insomma, siamo quasi in una botte di ferro, no? Proprio di ferro, speriamo, no? Cioè, botticella, diciamo, dai, esatto. Una botticella di legno. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Vengo da lei. Tutto bene? Bene. Abbastanza bene, grazie. Un po' di mal di gola per il tempo, però questa cosa delle banche sinceramente mi nervosiscono parecchio. Io volevo un po' segnalare il discorso che si dice spesso, la banca fa una truffa legalizzata. Io mi sono preso la briga di stampare i documenti di sintesi che la banca mi manda di volta in volta nell'anno. Anticipo che ogni volta che mi manda questo documento di sintesi, cioè le condizioni del mio conto corrente, mi chiede anche 1,20 euro ogni volta. Guardo le condizioni che venivano cambiate, generalmente me ne arrivano 3-4 all'anno e cambiano delle condizioni talmente assurde, cioè nel senso cambiano la virgola della commissione che va da un centesimo, 10 centesimi passa a 20 o da un giorno bancario passano a 3 piuttosto che a 4, sostanzialmente cose che io sul conto corrente non utilizzerò mai nella mia vita. Però intanto mi hanno chiesto 1,20 euro ogni volta che mi arriva questo documento di segnalazione, famoso documento di sintesi. La domanda è, posso pensare che la banca manda volontariamente, fa una modifica volontariamente delle condizioni del mio conto corrente solo per prendere questo 1,20 euro ogni qualvolta? Perché un 1,20 euro a uno, 1,20 euro all'altro, dottoressa Vizzari. Sì, sembra allora, poco possiamo... un euro, ma poi alla fine esatto, tutto cuba. Quello sicuramente ecco. Sì. Allora, non so se lo faccia con questa intenzione, però quello che possiamo consigliare è di passare sicuramente anche all'invio delle comunicazioni di trasparenza online, quindi anche in questo caso sicuramente ci sarà un risparmio. Poi se posso anche dire che visto che si tratta di variazioni che riguardano aspetti che il nostro radioascoltatore non utilizza mai, mi sento di poter dire che a questo punto sono comunicazioni che non sono assolutamente da considerare. Il conto va bene a questo punto, anche se le condizioni peggiorano non bisogna cambiare. Come salvaguardarsi? Purtroppo il documento di sintesi va inviato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta c'è una variazione delle condizioni per legge, per cui l'unica cosa probabilmente è pensare ad un invio online per ridurre i costi, ecco, le spese. A proposito di costi, dottoressa Vizzari, volevo commentare con lei questa lettera scritta al Sole 24 Ore. Una lettrice scrive: quest'estate a Milano mi sono recata presso un distributore di benzina, ho fatto 50 euro di diesel e mi sono presentata alla cassa per il pagamento. Quando ho esibito la carta di credito, il gestore mi ha chiesto, scocciato, se non avessi contanti con me. Ho risposto di no, mi sono appellata all'obbligo del bancomat per i pagamenti sopra i 30 euro e sempre più infastidito il gestore ha accettato il pagamento con carta e ci siamo salutati. Un mese dopo scopro, leggendo l'estratto conto, che per quel pagamento mi sono stati trattenuti 0,70 centesimi di commissione. Allora, partiamo da questa lettera per chiederle, come facciamo a capire quando usiamo il nostro banco? Ma te poi va a finire, no, sull'estratto conto. Stiamo pagando, oltre al prezzo del prodotto che acquistiamo, anche una commissione. Nessuno è tenuto ad avvisarci. Allora, dunque, nel caso specifico mi sento di dire che non è colpa del benzinaio questa commissione che si fa, che è stata applicata, perché in realtà si tratta di una commissione che ha applicato l'emittente la carta, perché la si è scoperta nell'estratto conto, quindi in realtà già nelle condizioni della carta di credito ci sarà scritta commissione per pagamento rifornimento benzina 70 centesimi. Ed è sempre così, cioè nel senso non c'è bisogno di un avviso per ogni spesa, la si trova, la si scopre direttamente dal contratto che si è firmato. Detto questo, però, bisogna ricordare a tutti che quando si paga con carte, il commerciante o comunque il gestore di un sito online o il benzinaio non ci può far pagare quel particolare prezzo, quel particolare prodotto o servizio di più, perché noi paghiamo con carta, con bancomat o carta di credito, perché questa è una pratica illecita, non è possibile per legge, quindi ci possiamo sicuramente opporre a questa richiesta. E in questo caso, come si scopre se ci ha applicato le commissioni? Di solito lo scontrino è più alto del prezzo del prodotto che si va ad acquistare. Quindi attenzione appunto a quello che viene digitato sulla cassa. Di solito però devo dire che già prima del pagamento la presenza di una commissione viene detta, ecco, ci sono dei cartelli che peraltro non potrebbero neanche essere esposti perché non si può pagare di più, però direttamente appunto nel negozio dal benzinaio. E appunto bisogna opporsi a queste richieste. Se ci certo. sono questi cartelli, cambiamo. Cambiamo, noi continuiamo a cambiare, ma non cambiate. Noi domani torniamo qui alle 11. Grazie ad Anna Vizzari per essere stata con noi. Torni presto a trovarci. Grazie, buona giornata. Adesso vi lascio nel viaggio nel mondo del via e della sostenibilità. Domani alle 11 vi aspettiamo di nuovo insieme qui con noi. Radio 24 presenta Viaggio nel mondo del bio e della sostenibilità.